si sta divertendo ad ascoltare Faulisi. Questa è vera solidarietà tra colleghi. Complimenti Nightwolf, che chiede e la dice lunga sulla sua conoscenza musicale, chiede un pezzo di Johnny Otis, e il Faulisi batte i tacchi e subito Willie and the Hand Jive. Rockin' Billy, he can walk and stroll in Susie Q and do that crazy hand jive too. Papa told Willie, you'll ruin my home. You and that hand jive has got to go. Willie said, Papa, don't put me down. They're doing that hand jive all over. Sister Flo, Grandma gave baby sister a dime. Said, do that hand jive one more time. Doctor and a lawyer and an Indian chief, now they all dig that crazy beat. Way out Willie gave them all a treat. Oh, when he did that hand jive with his feet. Negli anni 50 con un grande, anche lui un grandissimo, Johnny Otis. Gli anni 50 in California, incideva in quel gran palazzone della Capitol Records, lui dirigeva una banda infinita, era un talent scout, era, vabbè, ne ho parlato a lungo e spesso di Johnny Otis, un greco che rinnegava la sua pelle bianca, lui desiderava fortemente, altro che Michael Jackson, avere una pelle nera, che più nera non si può, ha sposato una nera, ha frequentato solo neri, ha suonato musica nera, era quella la sua vita, era quella. Johnny Otis ha fatto una grande vita di incisioni discografiche, veramente. Questa è soltanto una delle più importanti, uno dei momenti più importanti dal punto di vista commerciale di questa carriera infinita di Johnny Otis. E a questo punto alle 4:30 possiamo anche mandare in onda anche lui, l'altro mio grande idolo. Sto parlando di Sam Cooke. E Sam Cooke, questa bella canzone voglio dedicarla. Mi sembrerò banale, scontato, ma lasciate che io dedichi questa canzone a tutte le ragazze in ascolto e alle ragazze che sono in studio in questo momento. Eh sì, perché stasera, stanotte, il Faulisi a Rock FM ci è venuto con le ragazze. Cupid. No, I exist. Che fascino la sua voce, che fascino il suo aspetto, che uomo che era il nostro Sam Cooke. E qui eravamo con Sam Cooke all'inizio della sua carriera di pop star. Sì, perché aveva iniziato con del gran gospel, con i Soul Stirrers. Allora, Sam Cooke lo abbiamo ascoltato con Cupid. Sono le 4:30 e alle 4:30 vi arriva da Rock FM una canzone che è veramente storica. La prima canzone incisa da Elvis Presley, passato all'RCA, lasciata alla Sun Records, si intitolava così: Well, since my baby left me, Heartbreak Hotel. New place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll make you so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be you so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be you so lonely, baby. I'll be you so lonely, I'll be so lonely, I'll make you die. Now the bell of tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Elvis Aaron Presley, 1956, passò alla RCA per un accordo di $30,000, mi pare. Lui si beccò una bella Cadillac nuova di zecca. Da lì venne accompagnato per mano da tal colonnello Parker, che era una persona in gamba, ma pare anche un pochettino stronzo, ma giusto un pochino. Ma se ne raccontano tante di storie su Elvis, ci sono libri infiniti. Pare che non sia nemmeno morto, pare che viva su qualche altro pianeta e ogni tanto ci illumina dall'alto. I suoi discepoli sono ancora in giro, di figli ne ha avuti tanti, dal punto di vista stilistico, dal punto di vista così. E ci sono ancora alcuni dei suoi musicisti che vanno girando e per gli Stati Uniti e anche fuori dagli Stati Uniti. Credo che il suo chitarrista abbia smesso qualche tempo fa di suonare, Scotty Moore, ma il suo batterista DJ Fontana invece continua a suonare. Ha smesso un paio di ore fa, giusto Roberto? Giustissimo. Benvenuto a Good Rockin' Tonight a Roberto Ferrante, grande amico, grande musicista, uno dei migliori bassisti che conosco, fortunato anche in amore, e stasera viene a raccontarci altre fortune, per esempio quella di aver condiviso il palco con DJ Fontana questa notte. Ebbene sì, ciao Mauri. Ehi. Grazie. Allora, grazie a te per raccontarci le cose appena lì. Il riferimento all'agenzia ANSA, poco ortodosso fa. Di poco fa, era semplicemente una battuta su questo, perché lui ha suonato con il batterista di Elvis fino a, che sono le 4. A che ora avete smesso? 12:30. Quindi 4 ore fa hai smesso di. Hai salutato DJ e gli hai detto: ehi, ciao, ci vediamo domani, eh? Domani penso che in Olanda fare un altro concerto. Il ragazzino? Il ragazzino. Il ragazzino. Sì. Vabbè, cosa vuoi? Come sono andate le cose? Allora, raccontiamo il contesto. Hanno suonato con lui i Dreamers. Yes. Al completo. I Dreamers al sì, okay. Al completo. Vuol dire la band di Stefano Bardelli, che abbiamo avuto qui negli studi, che conosciamo bene. Io sono amico con alcuni elementi di questa band, oltre che con Stefano Bardelli, di Roberto Ferrante e Tony Holland, che non, il cognome mi sfuggiva al momento. Il chitarrista con questa band, questa è stata la band che ha aiutato a esibirsi a DJ Fontana, giusto? Esatto. Beh, cosa ti posso dire? Un'emozione. La raccontiamo pazzesca. Ai nipotini questa cosa? Sì, assolutamente. Uh-huh. Anche perché da bassista suonare con un batterista di quel calibro, insomma. Ah, anni siamo? Anni 77. 77. 77. E dici, dico che... com'era? Fisicamente prestante ancora? Riesce a... Sì, il suo fisichino asciutto. Beh, quello sempre. Come sempre. Uh-huh. Non è cambiato assolutamente. Ma quello che, diciamo, ha impressionato un po' tutti e soprattutto anche me e Tony, proprio nel momento in cui abbiamo cominciato il primo pezzo, che è stato con lui, Blue Suede Shoes, l'energia che aveva quest'uomo, il timing, il cosiddetto timing rock and roll. Ah, ragazzi. Guarda, non si può spiegare. Chi non suona non riesce a capire quello che ho provato in quel momento lì. Sì. Possiamo immaginare. Senti, affluenza di pubblico, feedback dal parte del... Come è stato? Direi serata meravigliosa, pubblico come al solito lì al Fillmore è sempre... Ecco, al Fillmore di... Corte Maggiore. Un grosso locale, sì. Dopo la serata, noi abbiamo suonato 15 pezzi con DJ Fontana e poi abbiamo fatto il nostro spettacolo, diciamo, anni 70. Quindi giusto, avete dato, come dire, un ordine storico, esatto, allo spettacolo, l'Elvis dei primi dei primi anni e poi seguito. E lì l'ha visto proprio crescere. Ecco, lui come persona? Molto sulle sue, sì. Però anche cortese, molto gentile. Cortese, sì. Si è fatto fare un sacco di foto, sempre figuriamoci. Disponibile anche con noi musicisti. Devo dire che fra i vari ospiti che Stefano ha invitato in questi anni a suonare con i Dreamers, io con DJ Fontana è quello con cui ho avuto proprio l'emozione maggiore, che con tutti gli altri, anche con Glenn Hardin, con Jerry Schiff, quell'Imperials, le Sweet Inspiration. Sì. Però lui proprio mi ha dato, forse perché appunto batteristicamente veramente... bene. Beccarlo andava beccato adesso, cioè noi naturalmente gli auguriamo che fra 18 anni possa tornare e suonare così con la stessa grinta con la quale ha suonato sicuramente stasera. Le cose purtroppo non potranno andare avanti a lungo e quindi chi ha avuto la fortuna di goderselo è stata sicuramente una bella esperienza. Direi di sì. Va bene, senti Roberto, le tue attività musicali, Roberto suona nei Dreamers, ma credo che tu non ti, la tua attività non si limiti ai Dreamers. No, tra l'altro in anteprima ti posso dire... No, non lo dico nessuno. No. Dovrei entrare a far parte di una band abbastanza importante. Ce lo telefoni, esatto. Ecco, perché la radio per una settimana chiude, esatto. Vabbè, ma comunque però per il resto come attività funziona bene, in crescita, sono contento del lavoro che hai scelto di fare nella vita. Sta uscendo, sì, assolutamente. Bene. Senti Roberto, grazie davvero per il tuo racconto e non vai a suonare con DJ Fontana negli Stati Uniti, no? Magari. Ma, ti sei fatto dare il biglietto da visita? Sì. Me lo fai vedere dopo? Sì, okay. Sì. Questo era Roberto Ferrante, l'abbiamo avuto qui questa notte a Good Rockin' Tonight, una notte davvero speciale, abbiamo avuto un paio di gruppi lanciatissimi nel mondo del rockabilly italiano, abbiamo avuto Marco Terminio degli Snack Doctors via cavo telefonico, abbiamo avuto Roberto Ferrante in carne ed ossa questa sera. Abbiamo avuto la voce di via telefono di Graziano Uliani, organizzatore del Porretta Soul Festival, il grande Porretta Soul Festival che si terrà anche quest'anno nella sua 21esima edizione, e abbiamo avuto persino Greg, questa volta ce l'abbiamo fatta dopo i tentativi di giovedì scorso e i tentativi di stasera, di ieri sera stesso, che stavano persino anche questi per la seconda volta andando, stavano sfumando, invece ce l'abbiamo fatta. Abbiamo parlato anche con Greg, quindi è stata una notte speciale, ma mica è finita, mancano ancora 3 ore e un quarto, e allora Shake, Rattle and Roll. Yeah. Grazie Roberto, yeah. Grazie, grazie. Grazie, ciao Mauri. I'm like a one-eyed cat peeping in the seafood store. Well, I can look at you and tell you ain't no child no more. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. Why you won't do right to savor your doggone soul? On a shake. Make me grit my teeth. I believed in my soul you were devil in nylon hole. I believed in my soul you the devil in nylon hole. Well, the harder I work, the faster my humming may go. Well, I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. Why you wanna do right to save your doggone soul? Shake, rattle and blue moon. Ve ne siete accorti? Sì, che ve ne siete accorti. Questa era una track, alternate track, ovvero una canzone, una alternativa, insomma, quella, una delle tante versioni che ha registrato di Shake, Rattle and Roll, non è quella ufficiale che poi ha conquistato il mondo. Lui incideva canzoni di bianchi, incideva canzoni di neri. Le canzoni dei neri che incideva, molte delle canzoni che incideva dai neri era quelle di Big Joe Turner. Sì, sì, è come Big Joe Turner. Un'altra canzone da Elvis, chissà se è ancora all'ascolto la nostra amica Elena, che aveva chiesto di non dimenticarmi assolutamente che viva Las Vegas per giovedì prossimo. No, tranquilla, viva Las Vegas, porterò 18 versioni di Viva Las Vegas. No, scherzi a parte, la porterò per te e per tutti gli altri, perché è una bellissima canzone. E ora proseguo ancora con Elvis, e poi insomma volteremo pagina. Abbiamo ancora tante altre cose da ascoltare, magari un po' di rock and roll italiano se vi va. Che dite? One night, eh? One night with you. Strong to hide. One Night With You. E pensate che questa canzone era stata preceduta da un'altra incisione che si intitolava One Night of Sin, ovvero Una Notte di Peccato. Gli hanno imposto di inciderla nuovamente. Ecco, la versione originale arrivava dal repertorio dei Neri, Dave Bartholomew, ovvero il produttore e musicista di Fats Domino a New Orleans, aveva fatto una canzone intitolata così, proprio quella canzone, l'originale era di Dave Bartholomew, One Night of Sin. Elvis l'ha presa in considerazione, la volle incidere, e i produttori di Elvis, la casa discografica, la RCA, gli impose di inciderla nuovamente cambiando alcune parole, perché non si è mai, insomma, l'Elvis ribelle dei primissimi anni stava per soccombere a quelle che erano le pressioni da parte della casa discografica, dell'establishment, e insomma una storia che conosciamo molto bene, che lo porterà alla distruzione. Un po' ha collaborato se stesso, cioè un po' l'ha fatto da solo, un po' lo hanno aiutato gli altri, quelli che dell'entourage che gli stavano intorno. Fatto sta che la distruzione è iniziata molto presto, molto, molto lentamente, quella di imposizioni dall'alto nel cantare, a dirigere la propria vita in una certa maniera e tutto il resto. Va bene, lasciamo Elvis, può essere che lo ribecchiamo più avanti nell'arco di queste ultime ore che ci separano, che abbiamo ancora a nostra disposizione fino alle 8 del mattino. Maurizio Faulisi al microfono di Rock FM, questa è Good Rockin' Tonight, una Good Rockin' Tonight molto speciale che rimarrà nella storia. Parlo della mia storia, probabilmente anche nella storia di qualcuno di voi ha questa piccola ambizione, questa cosa, quella di rimanere nel ricordo di chi ha amato questa radio, e fortunatamente siamo tanti. Che se ne dica? Chicken Blues sono i Dominoes. If you don't like chicken, leave that hen alone. Well, if you don't like chicken, leave that hen alone. She'll give you so much chicken, you cannot do a thing but moan. You're a big red rooster, but that don't mean nothing. Well, you're a big red rooster, but that don't mean nothing. If you mess around with her, she surely will clip your wing. She may be shaking with your coffee, shaking with your wine. Shaking, shaking, shaking until you lose your mind. If you don't like shaking, leave that hen alone. She'll give you so much shaking, you cannot do a thing but moan. You holler. Afternoon. Do chicken, chicken, chicken, eat the harvest moon. Well, if you don't like chicken, leave that hen alone. She'll give you so much chicken, you cannot do a thing but moan. Chicken. canzone sicuramente da dedicare agli allevatori di pollo che sono grandi ascoltatori di Rock FM. Non li ho sentiti questa sera, ma sono pronto a scommettere che sono anche loro all'ascolto. Sì, perché dedicarla a loro? Perché si intitola Chicken Blues, semplicemente. Domino's, non so se questo nome vi dice qualche cosa, è una delle formazioni doo-wop più importanti dei primi anni 50, importanti per il loro valore artistico, per le belle cose che hanno fatto, importanti anche perché altre nelle loro file sono passati alcuni dei personaggi più importanti che sarebbero poi a livello personale, a livello individuale, si sarebbero rivelati grandi nomi, Clyde McFeather e Jackie Wilson, sì, proprio lui, quello di Rip Petit. Meraviglioso, era l'ottobre del 1957 quando questo Jackie Wilson incideva una canzone che anche pochi anni fa è tornata in classifica con un video, un po' di anni fa, con un videoclip divertentissimo. Jackie Wilson ballava come un grillo, veramente, era veramente eccezionale, non solo nel canto, e faceva delle cose spettacolari con la voce, aveva una dinamica e riusciva ad andare dai registri più bassi a quelli più alti con una scioltezza che soltanto il Jackie Wilson ballerino eguagliava. Sì, perché muoveva i piedi come un ha insegnato a ballare a James Brown. Sì, ma ve l'ho già raccontate queste cose. E allora andiamo avanti. Parlavamo dei Dominos. I Dominos hanno ospitato Jackie Wilson e hanno ospitato anche il bravo Clyde McFeather. E il bravo Clyde McFeather era tanto bravo che finì nel gruppo dei dei Drifters, un gruppo, forse il gruppo rhythm and blues più longevo nella storia della musica rock. Il gruppo dei Drifters pare che, se non vado errato, sia ancora in attività. Naturalmente non sono gli stessi elementi, no, hanno cambiato centinaia di elementi, ma anche hanno cambiato centinaia di lead singers. Nei Drifters ci sono stati, ne ricordo giusto un paio, Ben King, che abbiamo ascoltato questa sera con Stand By Me, e lui, Clyde McFeather, che ci ascoltiamo con i Drifters, sì, con Fools Fall In Love. Drifters, questa è Rock FM, questa voce di Maurizio Faurisi. Mi danno dell'inossidabile via SMS, ma devo dire che suona il telefono a quest'ora, incredibile. Hank Ballard chiedono, wow. Ma ragazzi, ma allora siete delle persone serie voi. Allora vado a rispondere al telefono, perché deve essere sicuramente un'ammiratrice, e vi mando un bel tata, sempre il Clyde McFeather nei primissimi anni 60. Buon ascolto. To call your own instead of being in a crowd feeling all anche questa, bella anche questa. Qui incideva per una major ai tempi il nostro. Incideva per la Mercury o MGM, insomma era quel periodo dei primissimi, proprio 1960. E il produttore era lo stesso che è stato utilizzato in quell'altro disco che abbiamo ascoltato poco fa, ma magari un paio di ore fa, di Brooke Benton e Dinah Washington. Bene, che credo di dover deludere l'ascoltatore che chiede Hank Ballard. Cercherò bene tra le cose che ho alle mie spalle, ma temo di non averlo con me. Vedrò di rimediare magari giovedì nell'ultima trasmissione se ce la faremo. Allora vediamo, qui mi mandano un super bacio, allora, e io ve lo leggo perché non tengo alcun segreto nei confronti di nessuno. Allora, un super bacio da Laura e Luigi. Vabbè, potevamo fermarci nella prima metà, però prendiamo baci anche da Luigi. Grazie per il bel accompagnamento della nostra nottata, un bacio. Grazie davvero a voi Laura e Luigi, siete stati fortissimi a raggiungere le 5:10 del mattino. Potevate fare di meglio, ma il Faulisi vi perdona e vi aspetta magari nelle prossime serate dalle 23 alle 24 per l'ultima settimana di Good Rockin' Tonight. E a questo punto, per chi rimane, quanti siete lì fuori? Quanti siete? Stanno arrivando da Genova per fare colazione con me alle 8 del mattino. Insomma, c'è qualcuno che fa grandi sforzi, eh? 335-100-7777, questa è Good Rockin' Tonight. Mi sembra che ve lo dica con meno energia, allora rimedio. Good Rockin' Tonight! People are talking all over town, let them talk. Your friends keep knocking them down, that's all right, let them knock. He may be a wild one, but he's so sweet to you, they just don't understand. You love that man. Rumors are spreading like Wi-Fi, that's okay. Sempre bravi, il tondo Big Sandy, e mica l'ha messo così quel prefisso, l'ha messo perché è vero, è proprio Big, il nostro Big. Big Sandy and his Fly Ride Boys, grande rispetto verso gli anni 50, verso gli strumenti sicuramente vintage e gli amplificatori valvolari, insomma tutte quelle cose che aiutano a mantenere originale il suono, ma insomma, qui continuano a mandare messaggi. Il tuo Rockabilly ci accompagna nel ritorno a casa dalla festa di Rock FM, sei un grande, grazie. Con al cielo è fottuto rock and roll, questo ve l'ha suggerito Max De Riu. Sono pronto a scommettere, un saluto dai Via Reggini, siete davvero fantastici, anche Rosy Flores. Flores, lei grintosissima Rosy Flores dalla California ma anche dal Texas, che non so se vive in California o Texas, perché a volte si fa fotografare in California, a volte si fa fotografare in Texas e a volte si fa fotografare per terra con la sua chitarra che grida. Guarda, guardate, sto mostrando la copertina ai miei amici che sono qui al mio fianco perché per dimostrazione che non sto raccontando palle. Rosy Flores è eccezionale, è una signora di una certa età, è qui sdraiata per terra con la sua chitarra e dovete sentire come suona la chitarra, questa qua è veramente forte. Rosy Flores, un po' country music, un po' rock and roll, un po' americana, un po' di tutto, l'importante è che si tratti di buona musica, come quella di Elton John. Elton John cosa c'entra in Good Rockin' Tonight? C'entra, e come se c'entra. Oh la la, shake it going on, Elton John. Capisco perché non ha continuato a fare rock and roll, o almeno perché non ha continuato a incidere di tanto in tanto rock and roll. Certo, magari non si fa i grandi soldi con All Along the Shaggy Going On, ma dà grandi soddisfazioni a quelli come me e come voi che amano il rock and roll. L'ha fatta proprio bene, è vero? È vero che l'ha fatta proprio bene questa All Along the Shaggy Going On. E allora Back to the 50s con Joe Clay. You're driving me crazy, my life's a mess. Just when I think I got you for my own, I come to get you, but I find you gone. When you hide, I hope you're satisfied. You're running my life, causing all this drive. Doggone it. Let me have it now, cat. Well, I want making me blue, the doggone you hide. I hope you're satisfied. Well, I cause a confusion in your heart. Riccardo Valenzuela, lui, versione originale di La Bamba. Sì, proprio così, proprio così. E continuano ad arrivare messaggi, soprattutto di quelli che hanno passato la notte con la Rock FM, parte della notte, con Rock FM All Star Band. Sì, signori. Deve essere stato un gran bel successo, a sentire i commenti, a leggere i commenti di questi ascoltatori, di questi affezionati, di questi componenti della grande famiglia di rockfamily.it. Quindi un saluto a tutti quelli che stanno tornando, sono tornati, e così come Sissi, che è appena rientrata in casa e ha lasciato la radio accesa, spero inavvertitamente, nel senso che vabbè che sta per essere chiusa Rock FM e che bisogna ascoltarla tutto il tempo, però se non c'è nessuno in casa magari spegniamola lo stesso. No, vabbè, comunque è acceso la radio, comunque no, l'ho lasciata accesa, proprio così, e trova me con il rock and roll, stupendo. Sì. Il Faurisi va avanti ancora un po', va avanti per altre 2 ore e mezza, come dire, Allora, andiamo avanti con allora, questa era la Bamba di Richie Valens, più conosciuto come Richie Valens, ma è Riccardo Valenzuela il suo nome vero. un cicano della California che incise questa canzone, altre belle canzoni come Donna, come Come On Let's Go e poche altre, perché ebbe la vita breve, ebbe la sfortuna di salire sullo stesso aereo di Big Bopper e di Buddy Holly il 3 febbraio del 1959, quando il rock and roll morì, così alcuni sostengono. La Bamba, e hanno continuato a inciderla e a farla in diversi. La versione più bella è quella che poi ha dato anche, diventata colonna sonora del film, quella dei Los Lobos, altri cicani ancora della California. La Bamba. Ce l'ascoltiamo fino in fondo, La Bamba nella versione dei Los Lobos, i Los Angeleni di Los Lobos di East LA. Sì, l'abbiamo ascoltata fino in fondo perché abbiamo voluto ascoltare anche il pezzo che hanno suonato con gli strumenti tradizionali della tradizione norteña del Messico. Sì, perché questi signori portano avanti la tradizione. Sono cresciuti suonando le feste di matrimonio, di battesimo e di chissà cos'altro nella loro zona a Los Angeles per la comunità ispanica. I suoni tradizionali, tra l'altro, li hanno celebrati spesso i Los Lobos nei loro album e hanno inserito spesso queste sonorità acustiche e tradizionali. Bene, abbiamo quindi ascoltato due volte, non una ma addirittura due volte, la versione originale, la versione sicuramente più bella tra le cover esistenti, quella dei Los Lobos. Altra richiesta, ma chi li ferma? Chi li ferma? 335-100-7777. Andiamo avanti così, sono soltanto le 5:30. 335-100-7777. Mandate i vostri messaggi, fatemi sentire che ci siete, magari mandatemi anche delle richieste. Se poi le richieste che arrivano sono come queste, ragazzi, tanto di cappello. The Fat Man, 1949, era già rock and roll con Fats Domino, siamo a New Orleans. Fats Domino nel 1949 ragazzi. E nel 1955 cominciarono a chiamarlo rock and roll. Scusate se mi ripeto abbastanza spesso, ma così stanno le cose. E questo cos'era? Questo cos'è? Vabbè, comunque, dopo tanto buon blues e rock and roll da Fats Domino, ci possiamo ascoltare un po' di blues slash rock and roll da un duo di bianchi come il latte. Quei due che abbiamo già preso in considerazione in questa lunga notte, come mi fanno notare, mi fanno la domanda: ciao, lunga la notte? Come dire, sei stanco? Wait, no, che non sono stanco. E non mi sono neanche scordato di mandare in onda quel disco di Bob V che sta per arrivare alle 5, avevo detto, quindi manca mezz'ora. un saluto a Tia che mi dice e che dice a tutto il mondo: to old, to rock and roll, too young to die. Grazie per la notte, grazie a te, Tia. E poi altri messaggi: sono sempre con te, sempre. E Walter, che facciamo, Walter? Io sapevo, non c'era bisogno di spendere soldi in SMS, sapevo che tu c'eri, No, scherzo, continuate a tenermi compagnia. E andiamo avanti fino alle 8, si va avanti ancora un po', si va avanti ancora per ben due ore e mezza ancora di sano rock and roll da Rock FM, fino in fondo, fino alla fine. E riprendiamo, come si diceva, quel duo di bianchi del sud-est che normalmente fa bluegrass e che in questo caso ha fatto un album di duetti country e, come dire, mancano un pizzico di rock and roll. Avevamo ascoltato un 2-3 ore fa All I Have to Do Is Dream, ricordate? Ecco, sentite questo blues acustico quanto è bello. Sentito a Love, Sweet Love, Josh Groh e David McLaughlin. 1, 2, 3, 4.